sono stati fatti e che vengono giudicati come una distrazione sia alle società collegate sia alle società dipendenti, queste sono finanziamenti all'interno di un gruppo che in definitiva in un gruppo consolidato si opera così in tutte le parti del mondo. Si difende Cragnotti puntando il dito contro le banche, a cominciare dalla Capitalia di Cesare Geronzi, nel procedimento per il crack del gruppo che si è aperto il 16 luglio 2006 a Roma. Con l'udienza preliminare entrambi compaiono tra gli indagati insieme ad altri membri della famiglia Cragnotti, altri amministratori della società ed altri manager di istituti bancari come l'ex amministratore delegato della BPI Giampiero Fiorani o in posizione meno pesante gli ex vertici del San Paolo IMI Rainer Masera e Luigi Maranzana e l'AD della Deloitte & Touche Sebastiano Baudo. 1500 i bond people che si sono costituiti parte civile insieme ai commissari straordinari dell'Acirio. La parabola professionale dell'ex enfant prodige della finanza italiana Sergio Cragnotti tocca il punto più basso. Classe 1940, romano, figlio di un dipendente delle poste e di una casalinga, Sergio Cragnotti negli anni 80 è uno dei manager di primo piano del panorama finanziario italiano, tanto da guadagnarsi l'appellativo di piccolo Romiti. Come l'ex presidente di RCS, muove i primi passi nella chimica, nel gruppo Bomprini Parodi Delfino. Diventa il delfino di Serafino Ferruzzi e di Raul Gardini, per poi ascendere come amministratore delegato nell'Empireo dell'Enimont, la joint venture tra l'Eni e la Montedison. Con la ricchissima liquidazione inizia a tessere la sua ragnatela di finanziarie e aziende, come la Polenghi Lombardo, la brasiliana Bombril, la Centro Finanziaria. Dall'IRI acquista per 500 miliardi di lire la Cirio Bertolli De Rica, prima di acquisire anche il colosso della frutta tropicale Del Monte. Diventa il patron della Lazio che, con lui presidente, diviene la prima società calcistica ad essere quotata a Piazza Affari. Sergio Cragnotti, un calcio al cuore. Lei racconta la sua parabola, la sua storia di manager di grande successo, la sua storia anche del momento della crisi, del momento dell'arresto. Allora io voglio cominciare proprio dal momento attuale della vita di Sergio Cragnotti. Progetti? Senza dubbio siamo in una fase di transizione, direi, una fase di riflessione, una fase di progettazione anche per cercare di rimodellare un po' un sistema di vita che è stato totalmente disfatto. E nello specifico ritorni, non so, al calcio? Si parlava moltissimo di un ritorno al calcio perché in definitiva c'è una frase importante del libro, quella finale, cioè questa voglia di riprendere un po' quello perduto, le cose perdute. E allora un po' si è cercato, soprattutto nel mondo sportivo del calcio, di dire Cragnotti ritorna alla Lazio, eccetera, ma questo assolutamente è un sogno. Poi ripercorrere le cose fatte io credo che sia un errore, perché è quasi impossibile rivivere momenti magici della vita già percorsi. Ritorni in qualche particolare, diciamo così, iniziativa imprenditoriale? No, io credo che l'esperienza acquisita attraverso 40 anni di vita professionale, manageriale e imprenditoriale non va dispersa, ma soprattutto va sfruttata anche per riguardo alla mia famiglia, soprattutto rivolto anche ai miei figli, cioè di dare un po' a loro un indirizzo di vita e una qualità professionale capace poi soprattutto per loro ad aprire la strada di una eventuale attività sia imprenditoriale sia manageriale. Ora la risalita, affidata anche ad un libro, un calcio al cuore appunto, la difesa strenua del progetto Cirio e il contrattacco in sede giudiziaria. È un reciproco scaricabarile tra Cragnotti da una parte e gli istituti di credito, come Capitalia dall'altra, che già tempo fa aveva replicato alle accuse del manager, indicando la responsabilità del crack nella inesigibilità dei crediti di Cragnotti, il cui importo, scriveva l'Istituto Romano in una nota del febbraio 2004, era pari a circa 5,7 volte il patrimonio netto del gruppo Cirio Finanziaria al 30 giugno 2002, così replica oggi l'ex dominus del gruppo. Ma io credo che praticamente le storie delle nostre relazioni con l'Istituto Capitalia sono di diversa natura. Per quanto riguarda i bond, diciamo che le aziende che hanno sottoscritto, diciamo leader che hanno sottoscritto questi prestiti obbligazionari, erano diverse, non c'era soltanto Capitalia, ma c'erano le più importanti, diciamo, banche italiane che rappresentavano il consorzio di collocamento. Per quanto riguarda Capitalia, invece, per altri rapporti commerciali, siccome si sono fatte delle altre operazioni, ecco qui che c'è un giudizio che evidentemente Capitalia conoscesse lo stato di insolvenza del gruppo e quindi cercava di convertire poi i suoi crediti con la liquidità di questi bond, ma qui è tutto da verificare, tutto da controllare, ecco. Non credo che sia assolutamente, siamo su questa linea. Che effetto le fa rivedere foto con lei sotto braccio con Cesare Geronzi? Io credo che col presidente Geronzi c'è stato un rapporto commerciale, di affari, praticamente il nostro gruppo era un gruppo importante che stava nascendo e cui la banca si era dato un po' l'obiettivo di appoggiare, sostenere e incentivare. Poi evidentemente questa credibilità è venuta meno in un momento particolare e quindi come tale ogni decisione va accettata, ecco, quindi non è che se ne fa un problema personale, assolutamente no, il problema va sulla responsabilità che hanno spinto questo o quest'altro poi a quanto è successo. Oltre a Cesare Geronzi, Silvio Berlusconi, Ubaldo Livolsi e poi ancora più indietro Raul Gardini ed Enrico Cuccia, anche di tutti costoro parla ora Cragnotti, come dei giorni del carcere e di un mazzo di fiori ricevuto da Francesco Rutelli.